torno da sola al locale a caccia di lanterne, prendendo le perlucciole. Mi faccio offrire da bere da Luca e cerco lei. Ricolmo di sobbalzi liceali, cercando la posa, la mira. Il tempo atto a ordire un inganno. So muovere un dito a prenderci il fiato di mille persone su un palco, ma qui non so neanche parlare. Il suo amico che ho buggerato oggi mi buggererà. Mi fa felice e mi accolga con quella sua faccia da gongolo. Gli chiedo di salvarmi la vita, lui mi dice vada lei. È la tua fan più affezionata ed è lei che avevo cercata. Venere scollata, in corpo da Lolita. Fin troppo cordiale per come saluta, si scioglie intignata. Il suo non essere abbastanza ubriaca, poi invoca una serenata. Cantami pop, fammi sudare la febbre. L'apatico è triste ma ho un ritmo che mi trascina. E intanto mi chiedo se cigno o gallina, com'è che ti chiami? Livia, Lidia, Livia, Lidia, Livia con la V, fa con le dita. E il delta di Venere si apre alla voce della mia fantasia di ladro di cuori col bruco. La porto a bere come un cane pastore, lei mi porta a spasso come un barboncino. Mi attrae quel divano e mi siedo. E Livia se ne va, perdendosi nei fumi del barismo cordiale. Il mio divano in simil pelle è un amaro naufragare. La testa è fradicia di cazzate, anche il Gini invece che grondare piange la solitudine atavica del cugino triste di Umberto Smaila. Io perso ad aspettare un segno da Venere in vestitino, mentre qualche stronzo fa un filmino e grida vissuta della rockstar al bar del pescatore, di chi è finito sotto un camion di salva slip con le ali. Guardo culi che non potrò toccare, disegno curve che non saprò ricalcare. Mi chiedo ma che serve il mercato, a fabbricare sogni o a rivalutare l'usato. E intanto sono stonato e Afrodite non arriva. La bocca è una maschera di saliva, il bicchiere un funicolo di ghiaccio. Qualcuno attorno starà pensando io mi piaccio, qualcuno stasera vado a fica. E io penso ai vestiti, alle macchine, alle cene, ai cocktail, ai cappellini, al conto corrente che perde degli uomini che sanno dire in cifra cosa hanno da offrire alle donne che sanno farsi pagare senza farlo pesare. Il partito negli ultimi 20 anni è andato a puttane come il re, e come il re ha iniziato a sparare. E con il re tornerà sifilitico col colpo sempre in canna, per la gioia di ogni massaia drogata. Non arriva giù, non è sciupata, i suoi piedi di fata chissà dove l'avranno portata. Troppi amici, per questo non dice mi piace, ti salvo la vita. La vita è perduta. Non sono mai stato il bello del locale, a parte al pranzo di Natale, ma li conosco e so cosa hanno da raccontare. Voi siete belli e terribili come le tempeste, mettete sui dischi e dopo incendiate le feste. Normale stentiate a provare emozioni forti, d'altronde per essere leggende prima bisogna essere morti, puliti e pettinati, ma morti. Sempre, sempre, sempre sulla lista, ma morti. La mia generazione è una merda, Bologna è una merda, le donne sono una merda, gli aperitivi fanno tutti merda. I vestiti e i bicchieri di plastica mi hanno rotto il cazzo. Dovremmo essere nudi come vermi al macello su questa pista, a leccarci le ferite per il nostro tempo perduto, a rincorrere stronzate che nudi seduti più brutti e più veri, anche le belle fiche. Verdi, verdi, verdi, verdi, verdi. Merde, voi non avete niente da dare, verdi. Ed è un furto quel poco che avete da chiedere alla vita. I commenti sul baffo? Ma sei dimagrito? Si schiaccia facendo l'attore, eh? Poi arriva un trentenne a caccia di quelli che la domenica mattina piange cagando sangue invocando la mamma. E in tavola una teoretica sullo spottonamento del secondo bottone della camicia. Cambia tutto, eh? Vero o no, fa agli altri che nicchiano mentre Gongolo mi dice vada lei. E io a lei dico non ho mai salvato la vita una volta, figuriamoci la seconda. E senza dire nulla, Livia se n'è andata. Senza sapere di niente, senza nessun motivo per essere ricordata. T'avessi vista guardare la neve d'aprile per strada, poi non t'avessi più incontrata, forse t'avrei per sempre amata.